della canzone. Cold Wind. Bellissimo. Stai ascoltando. Ascoltando. Gigi D'Agostino. M. 2. Oh, oh. Sì. Roba de casche. Roba de casche. A coso? Eh? Dammi una stoppata, va. Fermati. Ecco. Questo non mi piace tanto. Titolo: The Only One. Artista: Noise of Love. Questo me lo scarico. I'm sorry.

salotto alle 18. Scegli il brano che vuoi ascoltare ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno su Il Cammino di Gigi D'Agostino. Vai su www.gigidag.com. Pom pom pom pom pom punto com. Pom pom pom pom pom pom pom pom. Sogno di quelli porno, mi alzo in piedi, mi corro intorno, mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Oh yeah. Corro intorno, mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Resto in fretta con la sciarpetta, incrocio il vicino ma non gli do retta. Il mio pensiero sta già creando e la mia mente sta già spaziando. Ore 22:30, c'è Gigi D'Agostino che commenta alla discoteca 24.000 baci. Latina, Latina, Latina, Latina. We'll be right back.

questo? Chi era questo qui? Chi? Chi era questo qui? Chi? Come si chiama? Manovella. Lento Violento Man. Lento Violento Man. Ma lo compro questo qua. Giochiamo lento, violento, lento.

Sta puntata non mi faccio sta cantata. C'è già sotto il mio tassista, sono Gigi e folclorista. Non ti devi la testa, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu fai male tutti i giorni. Ogni giorno io ti aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Ma la sigla va a sfumare perché devo respirare.